e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno a voi e benvenuti. Noi apriamo subito la puntata con un applauso. Per me? Grazie, grazie, non dovevi disturbarti. Evviva Deborah, sempre, ma sì. Anche Emanuele che ci ha scritto che da una settimana sta facendo colazione seguendo i nostri consigli e quindi ha portato in tavola frutta di stagione, pane integrale, arricchito con semi, crepe di latte vegetale e ovviamente qualche noce, perché bisogna sempre aggiungere un po' di proteine. Quindi riesce ad arrivare a pranzo senza fatica, il suo metabolismo si è svegliato e quindi scriveteci anche voi per raccontarci come magari con un piccolo sforzo siete riusciti ad ottenere un grande risultato. Già ti vedo, Deborah, sì, allora, sui campi. Chissà se il nostro Emanuele è anche un appassionato di attività sportive e di golf. E se fa l'architetto, ad esempio. Va bene, adesso noi continuiamo in questo crescendo di suspense sul tema dell'architetto che ci infastidisce un po', poi vi racconteremo un giorno perché. Ma io devo fare un saluto proprio a tutti gli appassionati di golf, perché non è andata proprio giù la mia battuta, che io reputo del tutto innocente, che ho fatto 2 giorni fa quando parlavamo di turismo, sul fatto che il golf non fosse uno sport adrenalinico. Tu pensa che mi ha scritto persino l'ufficio stampa di un grande network e mi ha invitato a fare una vacanza per imparare a giocare a golf in poche mosse fra benessere, buona tavola, sport e divertimento. Non si può fare più una battuta. Io apprezzo l'invito, ecco, però io lo accetto. Deborah sta a casa e fa colazione con Emanuele e vai e fa la rassegna stampa, va. Diciamo che quest'anno segniamo un allarme. L'allarme è quello che l'aspettativa di vita degli italiani non aumenta più, anzi diminuisce. Diciamo che gli italiani nell'ultimo passato avevano aumentato la propria vita in media di 3 mesi l'anno, quindi un anno ogni 4 anni, e invece questa volta, per la prima volta, l'aspettativa di vita diminuisce, di pochi mesi, ma diminuisce. È Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità e direttore dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle regioni italiane. Sono stati infatti pubblicati i dati, una sorta di pagella, frutto del lavoro di 180 ricercatori che proprio hanno raccolto e analizzato i dati sullo stato di salute degli italiani e sulla qualità dell'assistenza, regione per regione. Insomma, come in ogni pagella ci sono sufficienze e insufficienze, buone e cattive notizie. Le cattive le abbiamo già sentite, ma partiamo anche delle buone. Rispetto agli anni scorsi abbiamo fatto qualche sforzo per migliorare il nostro stile di vita. Facciamo più sport, fumiamo anche meno. Passiamo alle insufficienze, consumiamo meno frutta e verdura, siamo ancora in sovrappeso. In generale possiamo dire che non siamo bravi nella prevenzione. Il dato più allarmante l'avete sentito proprio raccontato da Walter Ricciardi: l'aumento dell'aspettativa di vita ha subito una battuta d'arresto. Tra l'altro è un fenomeno inedito e solo italiano. Potete seguire l'intervista integrale sul nostro sito e, dato che bisogna puntare sulla prevenzione, continuate a seguirci. Sarà presentata oggi al Senato della Repubblica Donne Celiachia, che è una guida del Comitato Scientifico dell'Associazione Celiachia, uno strumento semplice dedicato alle donne e al pubblico generale per aiutare proprio le donne a riconoscere anche i sintomi non classici della celiachia. Di questo parleremo nel corso della nostra trasmissione, un'occasione anche per parlare delle persone che eliminano senza alcuna ragione il glutine dalla loro dieta. 800 24 00 24 per raccontarci il vostro rapporto con il glutine. E a proposito di gluten free, sono in corso tra l'altro alcuni lavori scientifici che stanno analizzando la relazione complicata tra psoriasi e glutine. Di psoriasi parleremo nel corso della trasmissione per fare il punto sulle novità e per darvi anche dei consigli pratici su come avere il meglio della stagione in corso. Anche in questo caso potete dirci la vostra al numero verde. E infine, buone notizie: aumentano gli italiani che decidono di dire addio alla poltrona. Nel 2001 erano il 19,1%, oggi sono ben il 23%. E in particolare è aumentato il numero di chi gioca a golf. Deborah? No, stai inventando. Prendi chi, giro. Pur non praticando uno aumenteranno sport. Aumenteranno da oggi. Pur non praticando uno sport organizzato, svolge comunque un'attività fisica, come una passeggiata della serie Cammina che ti passa. Ma come prendere il passo giusto? Seguiteci, perché insieme al dottor Ongaro cercheremo di darvi tutte le regole per una camminata brucia grassi e salva cuore. Allora andiamo alla rassegna stampa di denari. Intanto rapidamente, per quello che riguarda i nostri approfondimenti, torneremo su un tema che fa arrabbiare molti italiani, il telemarketing aggressivo, telefonate che arrivano in ogni ora del giorno e qualche volta anche della sera tarda per proporci offerte commerciali. C'è una petizione di una grande associazione dei consumatori, ne parleremo, e poi parleremo di nuovo di dichiarazione dei redditi e del 7.30 precompilato. La borsa oggi è leggermente negativa, le borse sono un po' incerte oggi in tutta Europa, c'è attesa per la riunione del Comitato Monetario dalla Banca Centrale Americana. Fanno da contorno anche alcuni dati macroeconomici. Oggi aspettiamo dagli Stati Uniti la bilancia commerciale. Prosegue anche la stagione delle assemblee societarie. Oggi in Italia abbiamo quella di Intesa San Paolo, Mediaset, Unipol Sai, Anima, Iux, Net-a-Porter, Snam. Il tesoro torna sul mercato con 6 miliardi di bot semestrali. Milano in questo momento in calo dello 0,27%. Cresce l'importo medio dei prestiti erogati alle famiglie italiane nel corso del 2015, lo dice l'ultimo osservatorio CRIF. L'importo medio dei prestiti è aumentato del 13% a 12.385 euro. Continua a scendere invece l'importo medio dei mutui ipotecari, meno 3,3% lo scorso anno, a 122.942 euro. Oggi a Napoli viene presentata la nuova indagine Alma Laurea su profilo e condizione occupazionale dei laureati. C'è un convegno molto importante su formazione universitaria e posti di lavoro. A proposito di studenti universitari, volevo segnalarvi queste due notizie. Una la pubblica il Sole 24 Ore, che racconta quanto stia crescendo negli Stati Uniti il debito contratto dagli studenti che vogliono frequentare le costose, a volte costosissime, università americane. Una cifra complessiva spaventosa, 1.320 miliardi di dollari. Pensate che gli studenti americani si ritrovano appena usciti dall'università con un fardello medio di 35.000 dollari da restituire, che erano stati appunto erogati attraverso i famosi prestiti Stafford, dal nome del programma federale che offre tassi di interesse e condizioni di rimborso favorevoli. In Italia non abbiamo niente del genere, ma le banche offrono il prestito d'onore per finanziare gli studi, anche se senza grande successo. Ed è questa una storia che fa letteralmente a pugni con quella che invece abbiamo trovato sul Corriere della Sera, che ricorda la battaglia che sta conducendo da tempo l'AMI, l'Associazione degli Avvocati Matrimonialisti Italiani. Quindi dobbiamo salutare Nicoletta e il nostro amico Gianetto Regassani. Certo. Allora, la battaglia è sulla necessità di imporre un tetto anagrafico al mantenimento dei figli. Il Corriere torna su questo argomento dopo che il Tribunale di Modena ha emesso l'ennesima sentenza favorevole verso un figlio che vuole essere ancora mantenuto agli studi dai genitori. Questo ragazzo ha 28 anni suonati, vuole fare un altro corso universitario, ma il papà, separato peraltro dalla sua mamma, non ha tanto intenzione. Eppure il Tribunale di Modena gli ha dato torto. Insomma, il padre vorrebbe che il figlio camminasse da solo. Esatto, che si emancipasse un po'. È un tema molto interessante che noi abbiamo già trattato, ma sul quale Cuore e Denari tornerà senz'altro. Camminare senza fretta ad arrivare, camminare per il... Lo abbiamo anticipato, gli italiani, secondo il rapporto Osserva Salute, fanno più sport, sono meno sedentari, camminano un pochino di più. Ma allora come ottenere il meglio da una semplice camminata? Ce lo racconta il dottor Filippo Ongaro, vicepresidente dell'Associazione Medici Italiani Anti-Aging. Buongiorno e bentornato. Buongiorno Nicoletta. Allora, sono tre consigli flash, rapidi, semplici per chi ama camminare. Il primo è quello di muovere le braccia, non tenere le braccia ferme, ma muoverle ritmicamente, perché questo dà all'intero gesto una biomeccanica migliore, fa consumare più calorie e logicamente pompa più sangue attraverso l'organismo, che è uno dei benefici che vogliamo avere camminando. Numero due, cambiare spesso percorsi e superfici. Questo rende la camminata più divertente, più variata, ma contribuisce anche a mantenere più attivi i nostri sensi, l'equilibrio, la reattività, e contribuisce anche al punto 3, al consiglio 3, a permettere una variazione di intensità. Cosa voglio dire? Non camminare sempre allo stesso ritmo, fare dei pezzi, dei tratti a velocità un pochino più elevata, poi recuperare, e se appunto il percorso varia, magari ci sono delle salite, ci sono delle discese, e questo contribuisce a variare l'intensità, che è un altro degli aspetti molto utili da curare nel contesto di una camminata. Poi logicamente, quarto consiglio, ma questo è abbastanza scontato, è di dare regolarità a questo gesto, cercando di farlo, se non è possibile quotidianamente, insomma perlomeno 3-4 volte alla settimana, proprio a modalità di allenamento no, cioè, quindi vestendosi adeguatamente, pigliandosi il tempo per andare a camminare, è diversa la camminata piuttosto che camminare per esempio andando a vetrine per la città, ecco. Dottor Ongaro, grazie, consigli ricevuti, li mettiamo naturalmente anche sulle pagine di Cuore Denari, se volete potete anche aggiungere i vostri segreti, i vostri trucchi per camminare con noi. Dottor Ongaro, alla prossima! Grazie a voi! E noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade e poi di nuovo insieme, tra poco! Cuore e Denari. Eh sì, siamo donne e siamo il bersaglio preferito della celiachia, l'intolleranza permanente al glutine. Colpisce in Italia un numero doppio di donne rispetto a quello degli uomini. È una malattia che spesso si maschera, nascondendosi dietro dei sintomi spesso diversi dai classici disturbi gastrointestinali. Risultato? Bene, ci sono delle donne celiache che non sanno di esserlo e che si troveranno a fare i conti con le numerose gravi conseguenze dell'intolleranza non diagnosticata. Allora, per aiutare le donne a riconoscere la celiachia anche quando si presenta con sintomi non canonici, il Comitato Scientifico dell'AIC, che è l'Associazione Italiana Celiachia, ha messo a punto la guida, disponibile gratuitamente anche sul sito celiachia.it, che viene proprio presentata oggi al Senato della Repubblica. Allora, se sospettate che il glutine non vi sia amico, se siete o avete deciso di vostra iniziativa di eliminarlo dalla dieta, restate con noi, perché in linea abbiamo il piacere di avere il dottor Luca Elli, gastroenterologo dell'AIGO. L'AIGO è l'Associazione Italiana Gastroenterologi ed Endoscopisti Digestivi Ospedalieri ed è responsabile del Centro Celiachia del Policlinico di Milano. Dottore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, la celiachia è più diffusa tra le donne, ma noi ci rivolgiamo anche ai nostri ascoltatori. All'800 24 00 24 potete fare le vostre domande. Dottorelli, la predisposizione è genetica, ma non è una malattia genetica. Può manifestarsi sin dai primi mesi di vita, ma non è una malattia pediatrica. I test per diagnosticarla sono semplici e sicuri, ma i sintomi sono a volte molto subdoli. I casi sono in aumento, ma c'è un sommerso significativo. Insomma, dottorelli, se la celiachia fosse una persona la definiremmo sfuggente, contraddittoria, insomma doppia. È esattamente così, come ha detto. La celiachia si può presentare in diversi modi, con i sintomi più variegati e dell'intensità più varia possibile, sintomi lievi, moderati o molto severi. È una malattia che ha una base genetica, ma non spiega completamente il perché essa insorga. Abbiamo degli esami molto efficaci da proporre per fare uno screening. Il problema è quando sospettarla, va sospettata molto spesso e quindi molti pazienti sfuggono, diciamo. Allora, dottorelli, ci aiuti un po' a smascherare questa malattia camaleontica? Si possono presentare, diciamo, principalmente attraverso dei sintomi gastrointestinali, la celiachia, che possono andare dalla diarrea, al gonfiore, ma anche a volte la stipsi, come diciamo sono molto variegati, soprattutto anche l'intensità varia molto. Può essere un semplice fastidio che non disturba la qualità di vita in generale, o invece possono essere sintomi molto severi che incidono fortemente sulla qualità di vita. Un altro problema invece sono tutti i sintomi extraintestinali, che a volte sono da soli, cioè non c'è un sintomo intestinale ma c'è solo il sintomo gastrointestinale, e quelli più frequenti sono per esempio l'anemia, l'osteoporosi o l'infertilità, la poliabortività, visto che parliamo in maniera più peculiare di donne, oppure un disturbo del fegato che non si capisce da dove arrivi. Quindi tutta questa serie di sintomi possiamo aggiungere a queste le famose afte ricorrenti in bocca, afte che tornano? Esattamente, le afte orali che ricorrono cronicamente, che a volte tornano, fanno fatica ad andare via. Tutti questi sintomi extraintestinali, anche sintomi neurologici, il mal di testa, la cefalea o dermatologici, problemi tipo eczemi, rash cutanei, possono rientrare nello spettro della celiachia, quindi è una malattia che va sospettata molto spesso anche al di fuori della gastroenterologia. Lei ha citato gli eczemi, parleremo proprio di una relazione nel corso della trasmissione tra dieta senza glutine e psoriasi, perché parleremo di psoriasi, una grande cantante, no? Ha fatto questo annuncio, ha raccontato la sua storia con questa malattia. Ma, dottorelli, in presenza di questi sintomi, che non sono quindi solo gastrointestinali, si possono effettuare degli esami che ci portano alla diagnosi e quindi poi eliminare eliminare il glutine dalla dieta, che è l'attenzione che porta alla rimissione dei sintomi e può restituire benessere e salute. A proposito di esami, di recente le nuove linee guida del Ministero della Salute hanno aggiornato e reso uniformi su tutto il territorio nazionale le modalità di diagnosi della celiachia nel bambino e nell'adulto. Ci sono delle differenze, ricordiamole brevemente. Allora, in breve, c'è stata questa direttiva del Ministero che, come dice lei, ha uniformato la diagnosi. Nell'adulto, a dire il vero, non cambia molto, cioè vengono eseguiti come screening gli esami del sangue, quindi un esame molto semplice, gli antitrasglutaminasi, e solitamente, se positivi, questi indirizzano verso la gastroscopia con la biopsia, per quanto riguarda l'adulto. Nel bambino c'è stato il recepimento di alcune linee guida europee che permettono, in alcuni casi pediatrici, se vi sono tutta una serie di esami che coincidono, di bypassare la biopsia. Cioè, nel bambino in questo momento può non essere fatta la biopsia se sussistono alcuni parametri. Dottorelli, oltre che intolleranti, si può essere sensibili al glutine. Infatti si parla di sensibilità al glutine. Tra l'altro è circa 6 volte più frequente della celiachia. Facendo 2 conti possiamo dire che il problema potrebbe riguardare circa 3 milioni di italiani, in prevalenza adulti, perché si manifesta durante l'adolescenza e nell'età adulta, mentre è rara in età pediatrica. Allora, tra l'altro, molti di coloro che pensano di avere il colon irritabile sono in realtà sensibili al glutine. I sintomi ricalcano un po' quelli che lei ha raccontato e descritto per la celiachia, però ci aiuti a fare un pochino di chiarezza, anche perché lei ha condotto uno studio che ci dà delle informazioni importanti. Lo studio è molto ampio, ci faccia un bignami per raccogliere tutte le informazioni necessarie per chi ha o pensa di avere la sensibilità al glutine. Ci sono degli esami, delle avvertenze, delle controindicazioni. Esattamente, quello che si è visto in questi ultimi anni è che un numero anche elevato di persone ha riferito di sintomi che insorgevano dopo l'assunzione di glutine, in assenza di una celiachia e di un'allergia al glutine, quindi parliamo di pazienti che non sono né celiaci né allergeni al glutine o ai farinacei, riportavano questo come accendersi e spegnersi di questi sintomi, spesso extraintestinali. Spesso, come ha detto lei, la stanchezza, la difficoltà alla concentrazione o piccoli disturbi anche gastrointestinali, gonfiori, che insorgevano proprio rapidamente dopo aver mangiato il glutine e scomparivano con una dieta priva di glutine. Per vedere se questi pazienti, in effetti in questi pazienti il glutine fosse realmente l'agente, diciamo, dietetico che scatenava questi sintomi, abbiamo fatto questo studio in tutta Italia, in cui veniva dato il glutine di nascosto, diciamo così, senza che il paziente, ma neanche il medico, sapesse cosa stava dando. E avete misurato poi gli effetti. Sì, gli effetti del glutine rispetto a... Però, dottorelli, non ci sono degli esami che mi permettono di capire se sono sensibile al glutine? Attualmente non c'è, come per la celiachia, un esame per la sensibilità al glutine. Però ci state lavorando? Ci stiamo lavorando, dei biomarcatori, diciamo, che possono permetterci di fare una diagnosi. Quello che si fa adesso e che va fatto sempre con l'aiuto del proprio medico è, prima di mettersi a dieta, escludere che ci sia una celiachia, escludere che ci sia un'allergia ed eventualmente fare anche in ambito clinico questi test in cieco, cioè dare il glutine di nascosto rispetto a un placebo e vedere se c'è un nesso tra i sintomi e il glutine dato senza che il paziente sia conscio. Dottore, per finire rapidamente, abbiamo un minuto, parliamo di questa glutenfobia, la paura del glutine. 3 italiani su 10 pensano che una dieta senza glutine, quindi senza pane e pasta, faccia dimagrire, e 1 su 10 che sia addirittura più salutare. I dati sono di Doxa Aidepi. Allora, un minuto per raccontarci i vantaggi e svantaggi di una dieta senza glutine. Un minuto, brevissimamente, la dieta priva di glutine non fa né male né bene, alcuni soggetti ne traggono un beneficio e di per sé la dieta priva di glutine fatta anche da soggetti non celiaci non fa male, non ha nessuna controindicazione. L'importante è che questo non significhi, ma in generale per qualsiasi dieta di esclusione, un impoverimento, nel senso il mangiare sempre le stesse cose. Bisogna fare una dieta varia, se non si riesce a gestire una dieta che escluda un determinato classe di alimenti, ricorrere, farsi aiutare da un nutrizionista e basta, sostanzialmente non ha degli effetti collaterali, deve essere una dieta che però, pur escludendo il glutine, che non è un elemento essenziale, sia altrettanto varia e contenga quei micro e macronutrienti che rendono la dieta equilibrata. Bravissimo, dottorelli, è riuscito anche a stare nei minuti in questo blocchetto tutto dedicato al glutine, che naturalmente potete riascoltare in podcast. Adesso salutiamo il dottorelli, andiamo a sentire le informazioni del nostro GR e torniamo subito dopo insieme. Tutti i giorni, dalle 14 alle 15.30, il professor Genta e il professor Pardo, tutti convocati. Tutti convocati, sì, un'ora e mezza, 90 minuti, il tempo di una partita, grande entusiasmo, ottimismo. Sempre su Radio 24, la passione si sente. E la passione continua anche la domenica dalle 17 alle 19. Sono Giovanni Capuano e vi aspetto, tutti convocati weekend, facciamo il primo processo a quello che è successo in campo. Cuore e denari. Non occupatemi il telefono, dal mio amore dovrò sapere se vuole ancora ritornare da me. Allora, ci arrivano in ogni momento della giornata, pure al cellulare, ci raggiungono, ormai molti di noi hanno adottato le strategie più disparate per potersi difendere dal fenomeno veramente ormai fastidiosissimo del telemarketing aggressivo. Eppur comprendendo anche le necessità di lavorare di tutti quegli operatori di call center che fanno questo lavoro, e quindi necessariamente il lavoro è fatto così, per cui devono tempestare di telefonate le persone, in ogni caso ormai si cerca di dare battaglia a questo fenomeno in ogni modo. Fino al 2011 esisteva la regola del consenso espresso, si poteva telefonare solo a chi aveva dato l'autorizzazione a ricevere queste chiamate promozionali. Poi il sistema è cambiato, adesso per difendersi, perché bisogna difendersi, bisogna iscriversi al registro delle opposizioni. Peccato che però in realtà le società a quanto pare riescono anche a bypassare questo ostacolo e chiamano lo stesso. E allora contro questo fenomeno, che ormai è diventato veramente come dire un campo di battaglia, stanno dando appunto battaglia le associazioni dei consumatori. L'ultima iniziativa la intraprende Unione Nazionale Consumatori, che ha lanciato una raccolta di firme per chiedere una riforma del sistema dei call center. La petizione si chiama Non disturbarmi. Fra le proposte, più responsabilità fra operatori e call center e potenziamento di questo benedetto registro delle opposizioni che non funziona. Buongiorno Massimiliano Dona, segretario generale dell'Unione Nazionale Consumatori. Eccoci qui, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, avvocato Dona. E naturalmente, siccome il fenomeno interessa direttamente anche le autorità che controllano questo fenomeno, nella fattispecie l'autorità a garanzia della privacy, abbiamo interpellato anche questo istituto, quindi ringrazio per essere con noi Giuseppe Busia, segretario generale del Garante della Privacy. Buongiorno segretario, grazie. Ci sente? No, non lo abbiamo ancora, non importa, andiamo a sentire invece che cosa si propone come obiettivo questa petizione appunto dell'Unione Nazionale Consumatori. Intanto, avvocato Dona, quante e che tipo di segnalazioni ricevete ai vostri sportelli? Perché noi qua a Cuore Denari ce ne siamo già occupate, ci raccontano di ogni tipo di come dire chiamata i nostri amici che ci chiamano appunto all'800 24 0024 e possono raccontarci anche stamattina qualche episodio recente. Avvocato. Siamo letteralmente sommersi di segnalazioni e di reclami di consumatori esausti per questa continua battaglia contro le telefonate moleste. Accade che si ricevano telefonate a tutte le ore, naturalmente nei momenti più inopportuni, quando ci troviamo sotto la doccia, quando abbiamo appena scolato la pasta, quando siamo a cena con la famiglia. E questo accade per un motivo molto semplice, perché chiaramente l'operatore di call center deve essere certo di trovare qualcuno in casa, quindi al momento del pranzo, della cena, ci sono più possibilità di trovarci. Ma non solo, c'è anche la possibilità di trovare un consumatore distratto che magari per chiudere rapidamente la telefonata dà il consenso a qualche proposta un po' superficiale, ed evidentemente lì scatta poi tutta una serie di altri problemi, perché mi ritroverò magari a cambiare operatore di energia o di telefonia senza desiderarlo realmente. Ma beh, diciamo che il consumatore qualche volta dice sì perché magari un po' distratto, ma in realtà l'operatore al call center fa anche delle domande un po' trabocchetto per costringerti un po' a dire un sì dietro una domanda che non è esattamente una proposta di un contratto nuovo, ma insomma girano sempre attorno all'argomento in modo tale che tu possa indirettamente dare il consenso, perché purtroppo il meccanismo è questo, sempre rispettando appunto queste persone che lavorano nei call center, ma sono veramente fastidiose queste pratiche. Avvocato Dona. È proprio così, talvolta quello che ci viene detto al telefono non è neppure comprensibile, un po' per la velocità con la quale parla l'operatore, che naturalmente ha un testo da leggere, un po' perché talvolta si tratta di operatori che non sono di madrelingua italiana. Il risultato è che il quadro di informazioni che dovrebbe arrivare al consumatore è molto precario e molto provvisorio, senza dire purtroppo che in qualche caso il consenso di cui parlavamo prima è dato non dall'interessato, cioè dal titolare dell'utenza, ma, e queste sono situazioni davvero gravi, persino, non so, dal minore che si trova in quel momento in casa e che naturalmente non dovrebbe essere destinatario di offerte commerciali, oppure dalla mia cameriera o dall'anziana mamma o papà che si trovano in quel momento in casa. Situazioni davvero inaccettabili, anche perché è chiaro che il meccanismo dei call center è un meccanismo che in astratto dovrebbe facilitare il mercato, ma se è soggetto a queste devianze non fa che affliggere i consumatori che adesso adottano gli stratagemmi più curiosi pur di chiudere rapidamente il telefono. Oltre a non rispondere, che è quella che uso io, avvocato Dona, come stratagemmi. Allora, qualcuno di numero ne riconosco, qualcuno quando sento che partono subito a razzo con una proposta commerciale, buongiorno, parlo con la signora Deborah Rosciani, intuisci subito chi c'è dall'altra parte del telefono, e molto spesso brutalmente chiudo, e mi dispiace molto perché sono ragazzi, ribadisco, che lavorano in questi call center, magari guadagnano 400 euro al mese e un pezzo di stipendio lo fanno anche con i contratti che portano a casa. Chiusa questa parentesi, perché è lì che deve intervenire questa riforma di questi benedetti call center, le società devono trattare un po' meglio questi dipendenti. E però, insomma, avvocato Dona, a parte queste cose un po' drastiche che faccio io e anche un po' Nicoletta, no, e molte persone che ascoltano, devo dire che io dico la ringrazio per la telefonata, ma al momento non ho il tempo per dedicare le attenzioni che lei si meriterebbe. Oppure c'è chi dice non accetto proposte commerciali per telefono, mi scrivono mail, insomma c'è qualcuno un pochino più delicato e carino di me. Invece oggi i consumatori che cos'altro fanno, avvocato, per difendersi? Poi andremo alla vostra petizione e sentiremo il garante della privacy. Chi può non risponde. Quando dico chi può mi riferisco al fatto che naturalmente una se cosa vedi è una il numero privata, dove io posso riconoscere il numero, dove posso staccare il telefono, anche se ovviamente essere costretti a questi rimedi chiaramente è un'offesa alla libertà di ciascuno. Ma immaginate la situazione di uno studio medico, di uno studio di fisioterapia, di uno studio dentistico, perché anche quei numeri vengono tempestate di chiamate a tutte le ore, e chiaramente lì si offende anche un altro lavoratore, perché quello che sta lavorando e che invece è costretto a ricevere o la telefonata molesta oppure fiumi di pubblicità via fax, perché ovviamente la fantasia di questi operatori non ha limite. Il vero problema per noi consumatori è che non sappiamo chi ci sta chiamando. Il diritto essenziale di chi riceve una chiamata dovrebbe essere quello di sapere il motivo per il quale vengo chiamato, per conto di chi vengo chiamato. E allora difendermi, cioè potrei rimproverare a quella certa compagnia telefonica o energetica, ma dove avete reperito il mio numero? Invece c'è una opacità, una nebbia totale intorno a questi numeri. Talvolta, e questo è vietato dalla legge, ci chiamano dal numero anonimo. Questa è una cosa che fa arrabbiare, da impazzire tutti noi consumatori, e tra l'altro una violazione della normativa, perché la legge prevede che bisogna chiamare da un numero leggibile da chi lo riceve e soprattutto dichiarare all'inizio della telefonata il fine commerciale della stessa, mentre, come sappiamo tutti noi e tutti voi, spesso ci chiamano anche loro con le scuse, diciamo così, più furbe. Ce lo raccontano in tanti ascoltatori nel frattempo. Adesso, se ce la facciamo, ne sentiamo qualcuno. Avvocato Dona, prima di salutarla, poi andremo al garante della privacy. Allora, c'è chi ha provato ad iscriversi al registro delle opposizioni senza successo. La vostra petizione che obiettivi ha e come possiamo partecipare, se volessimo? Il principale obiettivo è proprio quello di potenziare questo strumento. Il registro delle opposizioni non funziona più, lo sanno tutti i consumatori. Perché? Perché non funziona per revocare i precedenti consensi che abbiamo dato. In altre parole, se io registro il mio numero oggi e magari l'altro ieri ho dato un espresso consenso comprando un prodotto o un servizio, il mio numero resta iscritto. Invece noi chiediamo che l'iscrizione di un numero valga a cancellare, ad azzerare tutti i precedenti consensi, così da non essere più disturbato per il futuro. E altra modifica molto importante: oggi non si possono iscrivere i cellulari, si possono iscrivere solo i numeri fissi. Sarebbe molto importante che ci fossero anche i cellulari. Grazie. Chi vuole aderire sul nostro sito trova questa campagna che si chiama Non disturbarmi, e anche sui social naturalmente già molto diffusa. Raccogliamo firme da portare in Parlamento, dove si sta ragionando su una riforma ormai urgentissima. Grazie avvocato Dona. Passo la palla al segretario generale del garante della privacy, Giuseppe Busia, che segue, immagino, questo istituto con grande interesse, questo fenomeno, peraltro le società anche per queste pratiche più o meno commerciali, se così le vogliamo definire, comunque comunque di marketing vengono molto tenute sotto osservazione, vengono anche ripetutamente multate, ma dottor Busia, senza successo. Allora andiamo proprio al nodo della questione che abbiamo posto con l'avvocato Dona. Volendo, lo strumento per potersi difendere senza dover, come dire, molestare l'operatore commerciale come consumatore c'è, è questo benedetto registro delle opposizioni. Mi spiega perché non funziona e anche iscrivendosi regolarmente il consumatore non ha alcun successo e continua a ricevere le telefonate di marketing aggressivo a casa? Diciamo, il registro delle opposizioni è nato con una legge che noi abbiamo sempre criticato, che ha un po' rovesciato l'onere in capo al consumatore e a vantaggio di chi chiama, perché prima dell'istituzione del registro per potermi chiamare a casa era necessario avere un mio espresso consenso. Dopo l'istituzione, attraverso l'istituzione del registro, si è detto: se vuoi evitare che ti chiamino, sei tu a doverti iscrivere. Quindi, come dire, siamo noi ad appendere il cartello fuori casa non disturbare e non chi bussa a chiedere permesso. Questo è il peccato originale, però ce n'è un altro e i numeri dimostrano che purtroppo il registro delle opposizioni non funziona, perché su oltre 115 milioni di linee telefoniche attive, comprendendo anche quelle mobili, negli elenchi, che sono le uniche linee che possono iscriverci, ci sono solo 13 milioni, quindi 1-2%, e solo 1-2% di queste sono iscritte nel registro, per cui la protezione eventualmente data dal registro delle opposizioni si riduce all'1-2% delle linee telefoniche. È chiaro che non funziona. Certo. E quindi non funziona perché la legge è stata rovesciata, non funziona concretamente. A volte, perché qui c'è anche una disattenzione generale, noi stiamo troppo facilmente diamo il consenso senza pensarci a e senza leggere purtroppo informative troppo lunghe, e quindi autorizziamo a chiamarci, per cui anche, e questo è il fenomeno a cui si riferiva lei, anche se io mi sono iscritto al registro, magari ho dato il consenso ad altri e ho autorizzato altre linee. Per questo anche noi, e sono una proposta che facciamo da tempo, è quella di allargare la possibilità di iscriversi al registro anche ai numeri che non sono in elenco, ma soprattutto far sì che quando mi iscrivo al registro cancello i precedenti consensi dati per le chiamate promozionali e quindi cancello, riprendo il controllo dei dati, perché alla fine la protezione, tutta la legislazione, la protezione. Resettiamo un po' tutta la situazione precedente sostanzialmente e ripartiamo. E per cui se io voglio effettivamente un mio operatore telefonico che mi chiami per avere offerte reali, posso anche sceglierlo, ed è il marketing sanno che fanno le imprese che fanno bene. Non voglio che ne approfittino tutti e mi propongano le cose più improbabili. Le faccio sentire intanto, Busia, un paio di ascoltatori velocemente, ma insomma che ci rappresentano molto bene tantissimi casi che vengono segnalati a noi, così come a tutte le associazioni dei consumatori e immagino anche al garante della privacy. Alessandra D'Ancona, buongiorno. Uno studio legale? Buongiorno. Sì. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Benvenuta. Buongiorno, grazie. Io vi seguo spessissimo, ovviamente, come posso, con il mio lavoro, però ecco, vi seguo, è sempre molto interessante quello che trattate. Grazie. Ecco, oggi mi sono proprio sentita colta in punta nel vivo, perché sono tempestata, lo potete immaginare, di queste telefonate. Sì. Che arrivano a tutte le ore, quindi mi capita spessissimo di essere in studio con i clienti e magari la segretaria in quel momento non c'è, riprendo la telefonata e quindi non si riesce a trattare, non si riesce a parlare. E lei è un avvocato, Alessandra, peraltro. Sì, potrebbe avere anche degli strumenti per potersi difendere, no? Ha mai pensato, esatto, di iscriversi, infatti, a questo registro? Nonostante il registro delle opposizioni, questi comunque bypassano tutto, riescono ad arrivare addirittura al cellulare e quindi mi chiamano al cellulare mentre sono in udienza, cioè cose veramente certo, assurde. Pure mentre è in udienza. Non, Alessandra, devo salutarla, posso... perché siete in tanti a volerci segnalare, non riesco a sentire Fulvio da Milano, che comunque ci racconta di ricevere telefonate in continuazione pur essendo iscritto al registro delle opposizioni. Chiedo un ultimo aiuto a Giuseppe Busia, segretario generale del garante della privacy, un suggerimento da dare ai nostri ascoltatori per tenere sotto controllo questo fenomeno, per evitare appunto telefonate sgradite in ogni momento della giornata, e soprattutto che ne pensa di questa iniziativa dell'Associazione dei Consumatori. Firmerà anche lei questa petizione? Allora, l'iniziativa pone una serie di proposte che noi condividiamo, abbiamo anche manifestato prima e detto, adesso il Parlamento sta discutendo all'interno della legge comunitaria, speriamo ci siano delle norme che almeno in parte rispondono a questo, per cui sono proposte che lo stesso Garante ha fatto, perché il registro va potenziato nel senso di potervi inserire più numeri, ma soprattutto dare più efficacia all'iscrizione, cancellare i precedenti. Seconda cosa, garantire una responsabilità solidale fra il soggetto a favore del quale è fatta la campagna promozionale, sì, e il singolo call center. Questo per garantire la raggiungibilità e anche per garantire la sanzionabilità nel caso in cui non si comporti bene. Quindi sono proposte che noi condividiamo. Voi sanzionate, segretario Busia, noi per queste pratiche? Noi abbiamo fatto diverse sanzioni, oltre 2 milioni e 600 mila euro siamo arrivati da quando è stato istituito il registro. Abbiamo e riceviamo moltissime segnalazioni di cittadini. Purtroppo il problema, quando diventa così ampio e così grave, non si deve curare la patologia. È incontrollabile. Bisogna anche per voi cambiare le regole, cioè, in modo che si cambi il sistema. E le imprese più serie facciano il loro dovere senza avere la concorrenza sleale di chi si comporta ecco, male. Esatto, grazie al segretario generale del Garante della Privacy, Busia. Ha parlato di patologia, hai sentito? Vedi? È qua ormai, cuore e denari ad ogni tavolo, anche presso l'Istituto Garante della Privacy, insomma. Adesso voglio abbiamo sapere il nostro se posto ti ricordi, d'onore. Adesso sì? Voglio sapere se sì? Ti ricordi di lei. Vediamo. Cara mia, anni 80, la ballavo proprio sempre, ero là in discoteca, 18, 19 anni, 17, era lei. E non mi dire che ha questo problema, telemarketing aggressivo le ha fatto venire un po' di orticaria, riceve un po' troppe telefonate? Probabilmente anche lei sarà un po' massacrata dalle telefonate ancora dei suoi fan, perché è ancora sulla cresta dell'onda. Mi piacerebbe sapere che colore di capelli ha in questo momento, perché era bella eccentrica nel suo momento d'oro. Io l'ho vista, adesso vedi una telefonata, questa è Carmelo che ci disturba. Comunque lei è Cindy Lauper, che è diventata testimonial di una campagna di sensibilizzazione, che in italiano suona come "sono pronta a combattere la psoriasi", ed è proprio un'iniziativa che incoraggia le persone che hanno la psoriasi a parlare con i medici, a farsi curare. La campagna in partnership con questa grande fondazione, la Fondazione Nazionale per la Psoriasi, che è, pensate, la più ampia associazione non profit a servizio dei pazienti con psoriasi e anche artrite psoriasica, e Novartis. E di psoriasi parliamo oggi perché è una malattia che colpisce la pelle, ma può avere anche un forte impatto psicologico. Ci sono ancora tanti pregiudizi su questa malattia, per questo siamo contenti che un artista come Cindy Lauper l'abbia portato un po' allo scoperto, perché chi ne soffre spesso la nasconde, perché deve fare i conti con lo sguardo della gente, sai, che si fissa su quelle chiazze rosse ricoperte da squamette, che a volte è difficile, molto difficile tenere nascoste, perché tutto quello che è sulla pelle si mostra, e ci mostra anche i lati più nascosti, le nostre fragilità. Ne parliamo oggi con il professor Giampiero Girolomoni, che è direttore della dermatologia all'Università di Verona e presidente della Società Italiana di Dermatologia. Buongiorno, ma finalmente, buongiorno, bentornato. Buongiorno. Grazie, buongiorno. Allora, imbarazzante, invalidante, discriminante, sono tre aggettivi con cui ancora oggi i pazienti che ne soffrono descrivono la psoriasi. Tra l'altro, questa è una malattia che può insorgere ad ogni età, interessare tutte le parti del corpo, ma generalmente le zone più colpite sono il cuoio capelluto, le ginocchia, i gomiti, le mani, i piedi, più raramente al viso. Allora, diciamo subito, professore, che non è contagiosa, quindi non si attacca, per dirla in modo semplice e diretto. La ragione è molto semplice, e lo diciamo proprio per sottolineare il fatto che non sia contagiosa, perché è una malattia autoimmune di origine genetica, o meglio dovrei dire poligenetica, perché in realtà è dovuta al coinvolgimento di più geni. E poi ci sono dei fattori di rischio che possono slatentizzarla o riacutizzarla. Professore, ci faccia una sorta breve però di una carta d'identità di questa malattia. È così, è una malattia autoimmunitaria, diciamo, si conoscono sempre di più i meccanismi della malattia, ma come tutte le malattie autoimmunitarie non c'è una causa iniziale da togliere, o anche se c'è stata all'inizio, poi non esiste più quando il paziente lo si vede, quindi spesso il paziente viene dal medico sperando che il medico gli indichi una causa della malattia, togliendo la quale la malattia regredisce. Non è così. Non è così per la psoriasi, non è così per il 99% delle malattie, soprattutto per le malattie autoimmunitarie. Qualche volta la malattia è scatenata da infezioni, Quindi quando mi parla di infezione, anche una banale tonsillite? Tonsillite batteriche? Sì. Certo, l'herpes zoster, la varicella può scatenare la psoriasi, l'infezione da AIDS, diciamo, da HIV. Sì. Ma sono casi rari complessivamente. E dei forti stress, quando siamo sotto pressione per lavoro, un lutto, una grande preoccupazione, ecco che la pelle parla. È così. Poi, ci sono degli molti studi fatti in diverse parti del mondo che indicano che gli eventi di vita stressanti possono scatenarla, ma una volta che è partita poi va curata semplicemente, non è che va... Ecco, va curata, una volta che è partita va curata. Ci sono tra l'altro, ad oggi non esiste una cura definitiva, ma sono disponibili molte terapie in grado di tenerla sotto controllo. Esatto. Anche per le forme più severe. Certo, soprattutto per le forme più severe. Per le forme più gravi, che esistono oggi una varietà di trattamenti con cui riusciamo a curare in sostanza tutti i pazienti. Esistono farmaci... esiste una ricerca molto attiva in questo ambito. Questi farmaci spesso sono efficaci non solo nella psoriasi, ma si usano anche in altre malattie come le artriti, per esempio. E ce ne sono di farmaci. Attualmente è in via di approvazione da parte dell'AIFA italiano un nuovo farmaco estremamente efficace che si chiama secukinumab, i nomi sono sempre complessi. Sì. Che assicura è un biologico che è un biologico che i cui risultati su molte migliaia di persone e già l'esperienza accumulata in altri paesi europei o negli Stati Uniti indicano una guarigione superiore al 90%. Cioè, quindi una cosa straordinaria. Ma il problema, professore, è che ci sono delle forme molto lievi di psoriasi, a questo noi dedichiamo l'approfondimento, che non arrivano all'attenzione del dermatologo, perché noi siamo molto bravi a fare autodiagnosi e quindi magari notiamo un piccolo eczema, diamo un po' di crema, pensiamo che magari di avere la pelle secca, e allora nella maggior parte dei casi è questa. Ma noi oggi vogliamo chiedere al professor Girolomoni di aiutarci a distinguere i segnali di un disturbo cutaneo da quelli invece della psoriasi. Tra l'altro, professore, io magari lei non ha ascoltato prima, nella prima parte di Cuore Denari, ma l'abbiamo pensata perché abbiamo parlato di glutine. Anche perché diversi studi stanno indagando se ci sia una relazione fra glutine e psoriasi. I lavori, lo sappiamo, sono ancora in corso, non ci sono risposte definitive, ma sembra che in un ristretto numero di pazienti psoriasici eliminare il glutine aiuti a migliorare le condizioni. Certo. È così? Lei me lo conferma? Sì, però bisogna precisare una cosa. Cioè, l'intolleranza al glutine è più comune negli psoriasici rispetto alla popolazione generale. Sì. Lievemente superiori. Quindi l'enteropatia da glutine è più comune nei psoriasici. In questi pazienti in cui questo è dimostrato, eliminare il glutine, che comunque sarebbe da farsi perché hanno l'enteropatia del glutine, gli va bene pure per la psoriasi. E quindi si però può provare, no? Presi 100 pazienti con la psoriasi, l'enteropatia del glutine è meno di un caso. Quindi se uno non ha l'intolleranza al glutine dimostrata con gli esami, non ha senso fargli la dieta priva di glutine. Allora, questo abbiamo sentito il parere del professor Girolomoni. Intanto raccontateci anche come cercate di tenere un po' a bada la malattia, con una raccomandazione che arriva al 349-238-6666, che giro al professor Girolomoni, perché naturalmente i nostri ascoltatori danno consigli a noi, molto graditi, anche ai nostri esperti. Speriamo che il vostro ospite dica anche che esistono le cure delle terme che offrono risultati eccezionali. Allora, parleremo anche di terme, ma adesso dobbiamo parlare invece di borse. Ma vorrei anche parlare di Ugo, che voglio salutare, perché dice: dai Deborah, che Cyndi Lauper la ballavi con il cestino dell'asilo al seguito. Ugo, grazie Ugo, carino. Lei si è guadagnato quasi quasi, le mando un libro solo così, sì, sulla fiducia. E il cestino, nel cestino. Col cestino, a tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. Ciao Celia Rosa adesso. Celia Rosa, i capelli di tinte ne ha fatti di tutti i colori e sembra che la sua psoriasi sia proprio partita dal cuoio capelluto. Stiamo parlando di Cyndi Lauper, diventata testimonial di una campagna di sensibilizzazione per la psoriasi, e ne stiamo parlando col professor Giampiero Girolomoni. Professore, così. La storia di Cyndi ci aiuta, perché dice che sì, all'inizio, ecco, lei comunque i capelli li ha belli stressati, ne ha fatti di tutti i colori. Però la psoriasi, il cuoio capelluto non danneggia i capelli in genere, quasi mai. Per cui uno, anzi si potrebbe dire mai, per cui uno può convivere, diciamo, con la psoriasi del cuoio capelluto senza accorgersene, perché i capelli ce li ha lunghi, ecco, non si vede. Ecco, perché ci siamo concentrati sul cuoio capelluto? Semplice, perché la psoriasi nelle forme lieve si manifesta con un po' di desquamazione a gomiti, ginocchia, cuoio capelluto, e in queste sedi viene spesso scambiata per forfora, ad esempio, quella del cuoio capelluto, oppure colpisce le mani e i piedi. Ci sono quelle piccole vescicoline, qualche taglietto, si pensa, che so, a una dermatite oppure a una micosi. E poi ci sono anche i segnetti nelle unghie, magari rosicchiatori dicono: mi sono rosicchiate le unghie a lungo, ecco che la lamina è diventata brutta. Allora, ho fatto qualche esempio. Lei, professore, dovrebbe aiutarci a darci quel dettaglio che potrebbe fare la differenza. Non fare autodiagnosi, questo, ma insomma, di capire che quella cosa su cui noi continuiamo a mettere la cremina, sempre più grassa, che si desquama, magari potrebbe essere altro. E allora inizierei subito dalla cosa più difficile. Partiamo dalla testa, e quindi iniziamo dalla forfora. Quando potrebbe trattarsi invece di psoriasi? Quando il prurito è molto intenso, perché la psoriasi del cuoio capelluto dà prurito spesso molto fastidioso. Sì. Quando persiste a lungo, perché di solito la forfora semplice, la dermatite seborroica, in genere sono più transitorie. Sì. E poi basta farsi, c'è un arrossamento sotto la forfora che è piuttosto diciamo forte. Sì. E si crea quasi uno scalino tra la pelle normale e la pelle malata. Quella è psoriasi in genere. Ecco, queste sono le indicazioni. Se avete la forfora, occhio, e soprattutto a questo colorino rossastro. Mani e piedi, vescicole, tagliette. Allora si potrebbero farci pensare ad una dermatite, no? I piedi sono delle chiazze arrossate che si coprono di squame. Non ci sono mai vescicoline con l'acqua. Quello è tipico dell'eczema. La psoriasi è una malattia di pelle secca, diciamo. Quindi, bene, pelle arrossata che si formano delle squame. Squamette anche tra le dita? No. Non in genere nelle zone estensorie esposte. Quindi non palmo delle mani o pianta dei piedi? Pianta dei piedi, anche il dorso delle mani, il dorso dei piedi, la zona sacrale. Poi le ginocchia e i gomiti, quelle sono le sedi tipiche. Ecco, ginocchia e gomiti. La pelle dei gomiti è una pelle che, no, è molto più secca, del resto della pelle, anche solo del braccio. Anche normalmente. Ecco, sì, lì cosa dobbiamo vedere? Delle chiazzettine? C'è il rosso sotto, sì. Il rosso. La squama, sotto c'è eritema, cioè c'è arrossamento. Quindi quando noi vediamo rosso sotto ci deve scattare, no? Che è una malattia persistente, non è una irritazione che magari può durare alcuni giorni e poi scompare. Generalmente la psoriasi è una condizione che perdura per sempre se uno non la cura. Allora andiamo alle unghie, abbiamo ancora un paio di minuti per poi dare dei consigli mirati. Sì. Sappiamo che le unghie, come la lingua, gli occhi raccontano molto, no? Della salute generale di un individuo, ma le unghie per il dermatologo sono molto importanti. Perché, professore? E soprattutto devono avere attenzione alle unghie anche le persone che hanno già una diagnosi di psoriasi. La unghia è spesso colpita, è un indice generico, però che ci può essere un interessamento articolare. A volte l'unghia è una spia del fatto che c'è un'artrite in vicinanza dell'unghia, perché la psoriasi può colpire anche le articolazioni, che si chiama artrite psoriasica. L'unghia a volte è una spia di questo aspetto. Quindi non va assolutamente trascurata, perché l'artrite psoriasica le persone non va diagnosticata per tempo. Esatto, non va confusa con le micosi, che spesso vengono sovradiagnosticate nelle unghie. Sì, ma che aspetto ha la psoriasi sulle unghie? Che io guardo quelle mie di Deborah, faccio una... No, mi sembra di essere a posto, che dice. Si possono creare dei piccoli buchettini, che si chiama pitting in inglese, tipo di tale da sarta, per intenderci, oppure l'unghia si stacca dalla lamina, cioè la lamina si stacca dal letto dell'unghia, creando delle macchie gialle. Ok, non è bello da vedere, ma non è importante vedere, sapere. Esatto, a volte fanno anche male, possono essere anche dolorosi in quel caso. Quindi buchini, occhio ai buchini e se le macchie gialle con la lamina che si stacca. Professore, abbiamo già anticipato su richiesta dei nostri ascoltatori il ruolo delle terme. Le terme, l'acqua termale aiuta? Certo, ci sono delle terme che hanno fatto degli studi dimostrando un'efficacia sia clinica che diciamo in laboratorio delle acque. Certo non ci possiamo aspettare dalle terme l'efficacia dei farmaci, sono meno efficaci, però vanno bene per una serie di persone che hanno forme non gravi, che hanno anche come intervallo tra le terapie farmacologiche. Ci sono delle terme dedicate un po' a queste cure delle malattie della pelle, se posso citare le terme di Comano, certo, le terme così, di Sirmione. Così sappiamo dove rivolgerci, certo, è importante. Comano, Sirmione sono quelle che mi vengono in mente così, che offrono non solo la terapia termale, ma anche la balneofototerapia, cioè l'associazione delle cure termali con la fototerapia. A proposito di fototerapia, lo sappiamo bene che non è una malattia stagionale, ma la psoriasi, come molte altre malattie dermatologiche, migliora, perché insomma il sole è un alleato straordinario. Ma lei ci racconti come possiamo prendere dal sole solo il meglio, soprattutto le persone che hanno ricevuto una diagnosi di psoriasi? Il sole è un elemento fondamentale della nostra vita, non solo per le piante, ma anche per noi. Ci fa la vitamina D, che è essenziale per la nostra, non solo per l'osso, ma anche per il sistema cardiovascolare, per il sistema immunitario. Esiste uno studio recente svedese che indica che le donne che prendono molto sole campano di più, sopravvivono un anno e mezzo di più di quelle che non prendono sole. Quindi il sole è fondamentale. Ecco, ci dà una buona notizia, adesso che osserva salute, dice esatto, che esatto, chiaro sta, che è una persona di pelle chiara, riducendo l'aspettativa di vita. Una persona di pelle chiara, con gli occhi azzurri, che normalmente si scotta al sole, deve fare molta attenzione. Quindi il sole va preso. Il sole va preso e... Ma con le persone che sanno di essere molto sensibili, devono prenderlo con moderazione, un po' come il cibo, se mi consenti. No, dove il troppo fa male, ma il poco fa peggio, o il niente fa peggio. Quindi bisogna un pochino... Ognuno deve sapersi... Poco di tutto, troppo di niente. Professor esatto. Girolomoni, grazie. Grazie a voi. Noi la ringraziamo per essere stato con noi. Se avete delle domande potete scriverci a cuoredenari@radio24.it. Grazie. Ma senti un po', perché alla psoriasi farsi il bagno è una buona soluzione? E con che modalità bisognerebbe farlo? Allora, tu dici, abbiamo parlato dei bagni termali. Esatto, ma a parte poi ci quelli, sono quelli anche di i bagni casa, in casa. In l'amido sicurezza. Di riso, non lo so, per esempio. Io so che mia sorella per i bambini, quando si irritano un po', questo è il rimedio della nonna per eccellenza. Esatto, quindi va bene. E poi, come ci insegnano sempre i nostri esperti, fuori dal bagno, asciugare bene la pelle. Quello va bene per ottimo, tutti. E poi io, una bella crema. Ecco, ma volevo sapere in realtà cosa dobbiamo mettere nella vasca da bagno, soprattutto se l'abbiamo comprata, abbiamo rinnovato il bagno e da questo rinnovamento, questo aver rinfrescato appunto il bagno, ristrutturato il bagno, noi ci aspettiamo un bel risparmio fiscale. Speriamo. Perché qua devo darti una brutta notizia, cara mia. Dimmela. Ti dico che non puoi portare questa spesa per il rinnovo della vasca, non la puoi portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi. Allora, in realtà questa è una notizia che è stata tanto enfatizzata in questi giorni da alcuni giornali, da alcune associazioni dei consumatori, ma che in realtà il Sole 24 Ore pubblicava già con grande serenità da un paio d'anni, quindi non è che sia esattamente una novità. Non abbiamo scoperto l'acqua calda. Esatto, insomma, allora per chi rifà per la vasca da bagno, anche se ha bisogno di ricostruire appunto questo che possiamo considerare un po' un sanitario, per magari una persona in difficoltà del proprio nucleo familiare, perché c'è un anziano, perché c'è un portatore di handicap, ebbene comunque questa spesa non vale ai fini appunto di una detrazione fiscale importante, che sono appunto quelle detrazioni che si vengono ricondotte alla manutenzione straordinaria degli immobili. Quindi nessun risparmio fiscale, quella è manutenzione ordinaria. Pertanto faremo chiarezza su questo punto, che in realtà ha destato molto interesse fra gli ascoltatori di Cuore Denari e fra tutti i contribuenti, ma faremo un punto preciso un po' su questa stagione della dichiarazione dei redditi, che vede per il secondo anno consecutivo alla prova il 7.30 precompilato. Insomma, anche stamattina abbiamo condito un bel piattino per Luca De Stefani, il nostro consulente fiscale, oltre che per il Sole 24 Ore. De Stefani, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuto. Allora, intanto noi abbiamo il traffico che adesso diamo, ma diamo anche il numero verde per chi avesse così al volo voglia di farci un paio di domande sul 800 24 00 24. Parleremo anche di chi deve ottenere dal fisco un rimborso fiscale importante superiore ai 4.000 euro. Attenzione, perché l'Agenzia delle Entrate può essere un po' rigida e severa nel ridarvi indietro questi soldi in tempi rapidi, ma invece chiedere tempi un po' più lunghi. A tra poco. Cuore e denari. Voglio restare tutto il giorno in una vasca, con l'acqua calda che mi coccola la testa. Però sappi, caro Alex Britti, che se l'hai rifatta da poco, il fisco non ti ridà indietro un bel niente. Manutenzione ordinaria, non straordinaria, nessun risparmio fiscale. Secondo me lui è da doccia, però. Tipo. L'importante è che si lavi. Quello a noi non importa quale modalità usa. Allora, siamo ufficialmente nel pieno dell'operazione dichiarazione dei redditi 2016. Quest'anno siamo al secondo appuntamento con il 730 precompilato, in cui debuttano fra le altre anche le spese mediche. Già qualche ascoltatore ha già scritto che ha già scaricato il modulo incompleto, per cui deve rimetterci mano. Allora continuate a chiamarci, vediamo che suggerimenti ci potrà dare Luca De Stefani. Allora, non mancano appunto gli aspetti da chiarire, i dubbi da sciogliere per chi decide di accettare la dichiarazione con i dati inviati dall'Agenzia delle Entrate oppure deve modificare i contenuti. Intanto segnalo che, per chi volesse approfondire, oggi c'è con il Sole 24 Ore una bella e ricca guida, si chiama 730 facile, per modo di dire, perché è tutt'altro che facile, dove vengono passati in rassegna i capisaldi della dichiarazione di quest'anno, i redditi anche esteri, gli sconti per gli immobili, le agevolazioni per l'istruzione, di cui parleremo con Luca De Stefani, gli aiuti del fisco per la salute e per il welfare. Allora, De Stefani, io direi di chiarire subito questa faccenda della vasca da bagno, perché ha creato un grandissimo clamore. Io l'ho vista su tutti i siti dell'Associazione dei Consumatori, come se da quest'anno improvvisamente il fisco avesse detto: no, non restituisco più nulla a chi rifà il bagno e si aspetta di riottenere appunto il rimborso fiscale importante per questo lavoro. In realtà voi, e soprattutto lei, già sul Sole 24 Ore aveva segnalato da marzo questa notizia, ma in realtà addirittura avevate dato un'interpretazione a un chiarimento dell'Agenzia delle Entrate addirittura il 2 agosto del 2014. Ci rifà l'ABC del rapporto vasca da bagno e fisco? Certo. Allora, praticamente il semplice cambio della vasca da bagno con un'altra vasca da bagno oppure con una doccia è un intervento di semplice manutenzione ordinaria. Quindi si può avere la detrazione del 50% per le ristrutturazioni, diciamo, ma solo nell'ambito delle parti comuni condominiali. Quindi se vi è ad esempio un condominio con dei bagni comuni, ecco, lo spostamento di un sanitario o della vasca da bagno, ma il semplice cambio appunto di questo sanitario può essere agevolato con il 50%. Ecco, io adesso vorrei che ci scrivesse qualche ascoltatore se vive in un condominio con il bagno comune in cui recentemente ha cambiato la vasca da bagno, perché questa è veramente pura follia. Detto questo, però, insomma, questo è il chiarimento che andava dato: per chi fa questo lavoro in via personale, in casa propria, nessuno sconto dal fisco. Esattamente. Anche se questa vasca serve ad agevolare il bagno di una persona in difficoltà. Secondo me la Lorenzin dovrebbe metterci una buona parola, perché sappiamo che molti degli incidenti, soprattutto tra gli anziani, succedono proprio in bagno. Quindi ci si rompe il femore, si rompono il femore, ospedalizzazioni, l'altro, la rottura del femore è molto rischiosa. Infatti, ma sai perché poi tra l'altro è stato necessario questo chiarimento, a parte a chi fosse sfuggito? Perché ci sono queste pubblicità che vanno in onda, lo segnala un commercialista, un tributarista veneziano che ha fatto una grande battaglia su questo tema, perché ci sono tanti tanti messaggi appunto pubblicitari di chi invita a fare questo lavoro in casa proprio perché poi si potrebbe avvantaggiare dell'incentivo fiscale, invece non è vero, per cui attenzione anche a questo. De Stefani, abbiamo detto tutto sulla vasca, ho precisato qualcosa? L'unico metodo per far rientrare all'interno delle spese detraibili al 50% anche i lavori nei bagni è il cambio, lo spostamento appunto dei sanitari con ad esempio dei lavori edili, quindi con il cambio della tubatura idraulica appunto per il water piuttosto che per la doccia. Insomma, quindi devi entrare con la ruspa. Esatto, quindi se il bagno lo rifai integralmente e cambi tubature, proprio una ristrutturazione radicale di tutto l'ambiente bagno, allora anche la spesa sostenuta per la vasca rientra in tutta la spesa complessiva che può essere oggetto di sconto fiscale. Certo. Corretto. Ecco, allora speriamo di aver chiarito una volta per tutti. E quindi, contrariamente a quanto promettono le televendite che vediamo in TV, dice questo tributarista appunto veneziano, un collega di De Stefani, si chiama Alberto De Franceschi, attenzione che la detrazione del 50% non vale per chi decide di sostituire la propria vasca da bagno con altra vasca, con sportello apribile o con box doccia. Chiusa la notizia, andiamo invece ai contribuenti De Stefani, che aspettano di ottenere dal fisco quest'anno dei rimborsi fiscali abbastanza importanti, sempre rimanendo in tema di ristrutturazioni, perché questi rimborsi, cioè questo tetto di cui si parla, superiori ai 4.000 euro, naturalmente li riceve solo chi magari l'anno scorso ha fatto un lavoro in casa abbastanza impegnativo. Allora, qual è la notizia su cui ha fatto il focus anche ieri il Sole 24 Ore? Perché l'Agenzia delle Entrate può dire non ti rimborso tutto e subito come ti aspetteresti se sei un lavoratore dipendente, magari attraverso il tuo sostituto d'imposta, che è il tuo datore di lavoro, appunto ti aspetteresti di ricevere tutta questa cifra nella busta paga di luglio? Perché l'Agenzia delle Entrate può mettersi di traverso a questo rimborso? Perché l'Agenzia delle Entrate potrà fare dei controlli preventivi prima di dare il rimborso del credito previsto e calcolato nella dichiarazione di redditi. In pratica, se il contribuente, una volta vista la dichiarazione precompilata, la modifica direttamente o anche tramite il proprio datore di lavoro, e da questa modifica risulta un credito superiore ai 4.000 euro, in questo caso l'Agenzia delle Entrate dice: tu datore di lavoro non puoi rimborsare direttamente il tuo dipendente entro luglio di quest'anno, ma devo fare io, Agenzia delle Entrate, dei controlli preventivi, e dovranno essere fatti appunto questi controlli entro il 7 di novembre di quest'anno. Se va tutto bene, quindi in base ai controlli non risultano delle anomalie nella modifica appunto che ha fatto il contribuente nel 730 precompilato. Più che allora... anomalie, l'Agenzia delle Entrate li chiama elementi di incoerenza, sempre per renderci la vita facile. Ecco. Sì. Ad esempio, se inserisco delle spese sanitarie molto elevate e l'Agenzia delle Entrate dovrà fare un provvedimento. Certo, oppure ci inserisco la spesa della vasca che non mi spetta. Appunto. Esatto. In questi casi allora ecco scatta il controllo preventivo, che si terminerà il 7 di novembre, e entro il 7 gennaio del prossimo anno, quindi appena dopo la Befana, l'Agenzia delle Entrate ci farà il rimborso direttamente. Ce lo fa tutto per intero De Stefani o rateizza? È previsto tutto per intero, appunto, ed entro quella data lì, quindi si presume anche per prima di Natale, perché la scadenza ultima è il 7 gennaio. E allora, quindi, qualche suggerimento da dare ai contribuenti che sono in attesa di avere un rimborso fiscale di questa portata? De Stefani, a che cosa devono fare attenzione? Ecco, si potrebbe valutare l'utilizzo di questo credito che risulta dalla dichiarazione di precompilata, modificata appunto dal contribuente, utilizzare questo credito per compensare altre imposte tipo la IMU o la TASI, certo. Quindi utilizzo il credito per pagare queste imposte tramite la F24 e ridurre in questa maniera il credito al di sotto dei 4.000 euro. In questo caso non scatta il controllo preventivo e il rimborso viene dato direttamente dal datore di lavoro. Un'altra soluzione potrebbe essere, per evitare il controllo preventivo, è quello di dare delega ad un intermediario abilitato, quindi a un commercialista o ad un CAF, per modificare lui direttamente nel sito delle entrate il 730 precompilato, e quindi lasciare a lui l'invio, ma tramite delega specifica appunto, di questo modello F24 precompilato modificato. Allora De Stefani, c'è un ascoltatore che ci scrive, ne abbiamo già parlato, ma magari ribadiamo un po' di regole anche a questo amico, al 349-238-6666. L'atto di compravendita, l'atto di mutuo, il preliminare d'acquisto dal notaio si possono detrarre dalla dichiarazione dei redditi? E soprattutto, sono informazioni, se tutto questo lo avessimo fatto l'anno scorso, sono informazioni che troviamo nel 730 precompilato? Allora, per quanto riguarda l'atto del notaio per l'acquisto dell'abitazione principale, questo non è detraibile, mentre è detraibile l'atto del notaio per il mutuo ipotecario. Certo, e anche la spesa sostenuta per l'agente immobiliare, se non ricordo male. Esattamente. Però questi documenti non li troviamo nel 730 precompilato, perché i notai e appunto anche l'agente immobiliare non sono obbligati a comunicare. A inviarli. Allora, le spese per quello che riguarda invece scolastica a 360 gradi, non ce la facciamo a trattarle, vi le metteremo tutte queste informazioni sul nostro profilo Facebook e su Radio 24 e noi intanto, Nicoletta, che facciamo? Andiamo a lavorare, ci sentiamo domani alle 10.30. Buona giornata e buon 7.30 a tutti.